Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti buona giornata. Si sono fatti attendere fino all'ultimo, ma alla fine sono arrivati e da venerdì scorso ognuno dovrebbe, il condizionale d'obbligo, trovarli disponibili al proprio sportello di filiale o all'ufficio postale. Parliamo dei nuovi correnti, dei nuovi conti correnti di base, strumenti pensati per offrire un servizio semplice ed essenziale, poco costoso, rivolto a quella platea di clienti che ha poca confidenza con le operazioni in banca. Si parla da qualche mese della necessità di predisporre strumenti di questo tipo, decisione che era stata confermata dall'accordo siglato il 28 marzo da Ministero dell'Economia, Banca Italia, ABI, Poste Italiane e Associazione Italiana Istituti di Pagamento, con un'esigenza nata dopo le indicazioni su trasparenza e tracciabilità dei pagamenti arrivate dalla manovra Salva Italia del governo Monti. Pensiamo alle tante puntate di Salva Danaio che abbiamo organizzato quest'anno sul tema del tetto massimo di 1.000 euro per i pagamenti in contanti, che reso obbligatorio l'approccio diretto agli strumenti bancari per tanti pensionati che prima avevano poca confidenza con questo mondo o che preferivano gestire in altro modo i propri risparmi per paura delle troppe spese. Proprio dall'emergere di questi bisogni è nato il progetto che ha portato alla predisposizione di questi strumenti, distinti in 4 differenti versioni, di cui una è dedicata appositamente ai pensionati che ricevono un assegno mensile inferiore a 1.500 euro. Ma si è cercato di tenere conto anche delle esigenze delle famiglie, in particolar modo di quelle che appartengono alle fasce meno abbienti. Quindi costi contenuti, trasparenza, facilità di comparazione, questi i punti cardine dei conti di base che ora possono essere appunto confrontati nelle proposte dei diversi istituti. Noi Salva Danaio questa mattina torniamo a spiegare il funzionamento di questi conti rispondendo alle vostre domande, ma soprattutto ci chiediamo: le banche sono tutte pronte nel offrire questi conti appunto alla clientela? Cercheremo di capirlo prendendo anche a spunto l'inchiesta fatta da Plus 24 del Sole 24 Ore, pubblicata venerdì prima. chiudete le pagine anche Gianfranco Ursino di Plus 24 del Sole 24 Ore, buongiorno a tutti. Sono stata assente da questo microfono per qualche giorno e stamattina faccio fatica a carburare di nuovo. Abbiamo con noi anche Carolina Gianardi, responsabile privati e imprese di BancoPosta. Buongiorno dottoressa Gianardi e bentornata a Salva Danaio. Buongiorno. Allora, per i nostri ascoltatori, avete l'esigenza di adottare un conto corrente di questo tipo? Vi siete già informati allo sportello? Quali dubbi avete? Avete riscontrato delle incertezze allo sportello bancario o anche allo sportello della posta? Raccontatecelo all'800240024 oppure scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete andare anche a curiosare sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24 e eventualmente a porci anche delle domande su Facebook e vediamo appunto se riusciamo a rispondervi intercettando le vostre richieste anche dal social network. Prima di aprire il dibattito su questo argomento, un'occhiata alla borsa. I temi ve li abbiamo già raccontati, almeno i principali, quelli che stanno animando la seduta sui mercati del vecchio continente questa mattina: le grosse incertezze legate, potremmo dire, alla Grecia, ma direi a questo punto a tutta la tenuta dell'area euro. Sono incertezze che appunto stanno condizionando pesantemente l'atteggiamento degli investitori e le performance dei listini europei, ma direi un po' di tutti, anche a giudicare dalle preoccupazioni espresse da qualche giorno a più riprese dal presidente americano Barack Obama, che invita i governi dell'eurozona a prendere delle misure per proteggere, per arginare questa crisi, perché non ne vuole assolutamente sentire parlare di contraccolpi che potrebbero arrivare anche dall'altra parte dell'oceano. Peraltro questa mattina anche il governo cinese, almeno secondo quanto afferma il China Daily, si starebbe preparando a far fronte ad una possibile uscita dall'euro da parte appunto della Grecia, e quindi diciamo che un po' tutto il pianeta è condizionato da quello che sta accadendo qua nel vecchio continente. In ogni caso, stamattina le borse sono contrastate. Londra è ancora chiusa per festività, Parigi segna più 0,50, Francoforte meno 0,80, Milano più 0,30%, sul FTSE MIB una giornata che vede gli acquisti ritornare tornare su gran parte dei titoli del settore bancario. Monte dei Paschi più 5%, Generali più 3%, peraltro su Generali una notizia che è arrivata poco fa: è morto Antoine Bernheim, il presidente onorario del Leone di Trieste. E la notizia è arrivata appunto direttamente dalla Francia. Il finanziere francese aveva 87 anni. Per quello che riguarda gli altri titoli, con rialzi più o meno vistosi, accentuati a Milano, la Popolare di Milano segna più 2,34%, Mediolanum più 2%, Salvatore Ferragamo più 1,93%, in rialzo dell'1,8% Saipem, più 1,7% in pregilo. In discesa invece abbiamo Telecom, che perde il 4%, Lottomatica meno 2,88%. Il governo starebbe pensando ad introdurre nuove tasse per il settore dei giochi, beh, probabilmente incasserebbe anche parecchio, e il titolo appunto ne risente a Milano. A2A meno 2,42%, Finmeccanica meno 2,16%. L'euro sul dollaro a 1,24,32, mentre lo spread fra BTP e Bund questa mattina è di nuovo in tensione, oltre i 450 punti base. Il rendimento del titolo decennale sul mercato secondario è al 5,7% all'incirca. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Caro Gianfranco, teniamo da parte le preoccupazioni legate all'andamento dei mercati finanziari, anche se voi naturalmente monitorate costantemente su Plus24 anche questo argomento, ma la storia di copertina di sabato scorso era dedicata proprio al conto corrente di base, che ormai in banca dovrebbe essere pronto, almeno da parte di tutti gli istituti di credito, questa offerta dovrebbe essere già stata predisposta. Vogliamo un po' ricordare la cronistoria di questo strumento a disposizione soprattutto delle famiglie che hanno bisogno di un conto corrente semplice, chi magari non aveva mai avuto nessun tipo di rapporto con la banca, perché esistono ancora delle famiglie, degli irriducibili di questa convinzione, adesso hanno a disposizione appunto questo conto corrente di base, che dovrebbe costare pochissimo e soprattutto avere una operatività molto limitata. Ma perché è stato necessario introdurlo? Lo vogliamo ricordare? Certo, infatti tutto è partito con il decreto Salva Italia che il governo Monti aveva varato nel dicembre scorso, quando anche in concomitanza aveva previsto anche una sorta di lotta al contante, obbligando i pensionati con una mensilità che fino ad oggi andavano allo sportello per prelevare i soldi direttamente in contanti, ad avere un conto corrente di appoggio. Quindi se da una parte si vincolava, si obbligava, no, anche delle persone che non avevano mai avuto un conto corrente ad aprirlo presso il proprio intermediario, che può essere Poste Italiane come qualsiasi altra banca, a questo punto è andato incontro cercando di delineare, no, e identificare un conto corrente di base, di cui stiamo parlando oggi, per dare la possibilità, a costi contenuti o nulli, di avere un minimo di operatività, un minimo di servizi per poter gestire il pagamento della pensione gratuitamente. Ora, da questa esigenza iniziale di base a cui siamo partiti, poi piano piano è stato arricchito nei vari passaggi parlamentari, prima del decreto Salva Italia, che ha avuto un po' una storia poi nelle aule del Parlamento, un po' travagliata. E poi anche alla fine tutto è finito con una firma di una convenzione da parte del Ministero del Tesoro, dalla Banca d'Italia e dalle dette interessate, che sarebbero Poste e dall'ABI, che rappresentava tutte le banche, nella quale si sono definiti i dettagli di quelli che devono essere i contenuti di questa offerta base, non soltanto per i pensionati, ma anche per chi ha un reddito, un cosiddetto ISE, che viene ormai certificato, utilizzato, no, per stabilire la sostenibilità economica di una famiglia, e viene rilasciato dai CAF, dai comuni, no, per diverse esigenze, compresa adesso anche questa di avere la possibilità di avere questo conto corrente base, anche per chi ha un ISE inferiore ai 7.500 euro. In più è stata prevista, è stata allargata questa offerta di base, sempre ricordiamola, anche a tutti quanti noi, a tutti quanti quelli, a tutti i clienti, no? Dove però è previsto, in questo caso c'è un'offerta limitata di servizi senza nessun tipo di remunerazione, no? Del conto corrente, e dietro il pagamento comunque, in questo caso per oltre ai pensionati, dicevamo prima, oltre alle persone meno abbienti, diciamo con un ISE sotto i 7.500 euro, anche per tutti i clienti è prevista la possibilità di avere questo conto di base, se è sufficiente per le sue necessità, che a fronte diciamo di una operatività limitata, io pago un leggero canone che in questi giorni le banche dovevano andare a definire, perché dovevano essere pronte per il primo di giugno, no? Entrata in vigore di questo corrente base. Cosa avete scoperto? Erano tutte quante pronte? Noi abbiamo cercato settimana scorsa, no, alla vigilia di questa entrata in vigore, di verificare sia direttamente con le direzioni centrali delle banche, sia direttamente andando allo sportello, no, facendo delle domande come clienti, e abbiamo appurato che da parte degli istituti, diciamo, di credito non erano ancora assolutamente pronti al 31 maggio, il giorno, cioè dovevano ancora mandare alle filiali i prospetti informativi da poi eventualmente girare alla clientela che chiedesse informazioni sulla tipologia del conto. E allo stesso tempo, difatti, abbiamo appurato che andando allo sportello ancora oggi gli sportellisti dipendenti, diciamo, erano ignari oppure non ci illustravano la nuova offerta. Diciamo che in qualche maniera non erano autorizzati, comunque proprio non avendo anche l'offerta commerciale di base, a proporre questo prodotto. E quindi continuavano ad offrirci la loro offerta, diciamo quella che è già canonica, che siamo abituati a ricevere. Diciamo che qualche banca, per prepararsi all'avvento del conto corrente di base, probabilmente ha modificato un po' qualche caratteristica, forse di qualche conto corrente che aveva già in casa, riducendo i costi su certi conti molto, molto semplici, magari riducendo l'operatività, e quindi, diciamo, per essere subito pronti hanno magari proposto questi, però non erano esattamente conti correnti in linea con quanto chiesto dalla convenzione, appunto, che indicavamo prima, firmata dal Ministero dell'Economia, ABI e le altre istituzioni che abbiamo indicato, come per esempio le Poste Italiane. Dottoressa Giannardi, ancora buongiorno. Guardi, non mi sono accorta che siamo già arrivati a 12:28 e devo già fare la prima pausa, per cui, per non farle iniziare il discorso poi non lasciarglielo concludere, se lei è d'accordo la sentiamo già nella seconda parte della trasmissione, poi alle 12:45 Carolina Giannardi deve lasciarci, ma le faccio fare proprio un po' un punto della situazione su quello che possono trovare pensionati e famiglie poco abbienti in Italia agli sportelli, appunto, delle Poste Italiane. Come vi siete preparati ad ottemperare a questa convenzione, appunto, che ha visto anche voi tra i firmatari insieme al Ministero dell'Economia, Banca Italia e ABI? Quindi le chiedo un minutino di pazienza, andiamo già a fare la nostra prima pausa. Invito ancora gli ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24, oppure a scriverci al 349 238 6666. Ci sentiamo tra pochissimo. Allora, siete tra quei pensionati che percepiscono una pensione? Stamattina non ci siamo proprio, evidentemente, o è il tempo, sta arrivando un'altra sequela di temporali nel nostro paese, quindi con la lingua non ci siamo. Dicevo, siete fra quei pensionati che percepiscono, appunto, una pensione di importo superiore ai 1.500 euro, ma che fino a ieri l'avete ritirata in contanti, adesso avete invece l'obbligo di fare l'accredito su un conto corrente. Allora sapete che nella sostanza, se siete, come dire, dei profili a bassa operatività, potete sottoscrivere o in banca o presso le Poste un conto corrente di base. Come funziona questo strumento? Dal primo giugno banche e Poste devono essere in grado di darvi tutte le indicazioni su quanto intendeva il Ministero dell'Economia quando ha, come dire, predisposto, inventato questo prodotto, per dare proprio l'opportunità a pensionati e famiglie di aprire un conto corrente proprio per effettuare tutte queste operazioni. Allora, Carolina Giannardi, responsabile privati e imprese di Banco Posta, prima di farle un po' raccontare cosa è successo alle Poste Italiane in questo frangente, per trovarvi pronti a questo appuntamento del primo giugno, le faccio fare anche una domanda dal nostro Gianfranco Ursino, che fremeva per il suo quesito. Gianfranco. Sì, buongiorno. Volevo soltanto chiederle, prima di lasciarla e non avere poi il tempo di fare una domanda. Quando, naturalmente, questa offerta di base è riservata anche a quelli che sono già titolari di un conto corrente BancoPosta, che sia BancoPosta Più, BancoPosta Click o qualsiasi altro tipo di offerta che avete nella vostra gamma di conto corrente. Volendo passare al conto corrente base, è necessario cambiare il codice IBAN e quindi dover comunicare all'INPS poi il nuovo codice, oppure se uno ha anche degli addebiti di varie utenze, tipo luce, pagamento di luce, gas, diciamo, deve poi comunicare al gestore, diciamo, oppure, il nuovo codice, oppure, visto che rimane sempre nella stessa filiale e quindi dell'ufficio postale, in questo caso della banca, diciamo, non cambiano i termini, non praticamente cambiano dell'IBAN, teoricamente. Dottoressa Giannardi, allora, che cosa vuole cominciare da quest'ultima domanda, o rifacciamo va benissimo. L'ultima domanda, allora in questo momento, quindi al momento del lancio, è necessario procedere con la chiusura del conto in essere e l'apertura di un nuovo conto corrente. Questa scelta, per quanto diciamo inefficiente lato cliente, ne siamo consapevoli, è stata dettata da dei vincoli tecnologici. Col tempo a disposizione abbiamo dovuto dare delle priorità su quale funzionalità rendere disponibili dal giorno 1 e ovviamente la priorità era a poter offrire l'offerta completa il 1 giugno. Quindi di fatto i nostri sistemi informativi stanno lavorando per consentire la migrazione, mantenendo il numero di conto corrente, anche da un conto corrente tradizionale al conto di base. Però in questo momento se si vuole accedere a un conto di base, se è titolari di un conto Banco Posta, bisogna procedere con la chiusura e a questo punto con l'assegnazione di un nuovo numero di conto corrente, quindi un nuovo. Dottoressa Gennardi, in questi mesi in quante persone, quanti pensionati vi hanno chiesto informazioni sull'arrivo del conto corrente di base anche presso le vostre filiali, presso i vostri sportelli? Ma guardi, devo dire che l'attenzione è stata più in generale su quale strumento utilizzare per accreditare la pensione, e da questo punto di vista forse noi diciamo siamo stati anche agevolati dal fatto che storicamente, quindi non dal 1 di giugno, abbiamo uno strumento a disposizione dei pensionati per l'accredito della pensione gratuita, che è il libretto. Quindi sicuramente fino ad oggi l'attenzione e l'interesse dei pensionati è andata verso questo strumento, che di per sé già soddisfa esigenze di base, in particolare di accredito e prelievo della pensione. Quindi, se devo dire la verità, c'è stata più un'attenzione da un punto di vista mediatico che non da un punto di vista del singolo consumatore. E anche diciamo le richieste che stiamo rinvenendo in questi giorni, poi stiamo parlando di 2 giorni lavorativi, sabato, che è sempre una giornata abbastanza e più era festiva, in genere una giornata un po' più lenta e per di più quest'anno era festiva. Oggi diciamo siamo all'inizio della settimana, devo dire ancora ho pochi riscontri sugli uffici postali. Dottoressa Gennardi, Pierfrancesco ci scrive: mia suocera riceve la pensione con accredito su libretto postale cointestato da cui vengono prelevati i contanti, non è in grado di aprire un conto corrente in quanto non più presente a se stessa. Può continuare così? Credo che il libretto sia sufficiente per dimostrare la tracciabilità. Ecco, sì. Assolutamente quello che dicevo prima, cioè il libretto continua a mantenere la sua funzionalità ed è assolutamente dal nostro punto di vista, ma dal punto di vista dei clienti, una valida alternativa al conto di base, ecco, quindi certo. O a qualunque altro conto corrente laddove le esigenze del cliente sono esigenze essenziali di incasso e pagamento. Gianfranco Orsino. Sì, che per i pensionati ok, nel senso che effettivamente diciamo l'offerta del conto corrente base per i pensionati e quella diciamo del libretto postale viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda, ma per quanto riguarda secondo me le persone meno abbienti, dove il conto corrente base è sempre offerto gratuitamente e prevede anche l'esenzione dal bollo, no? Che i libretti di risparmio a prescindere diciamo dall'entità pagano. Della giacenza in più, sì, a prescindere cioè nel senso i libretti pagano se la giacenza è superiore a 5.000 euro, no? Ecco. Mentre per quanto riguarda il conto corrente base non viene pagato a prescindere dalla giacenza, no? Se la persona ha un reddito anche perché sarebbe incongruente che ci sia 50.000 euro di, come dire, di saldo sul conto corrente e un ISE inferiore a 7.500 certo, euro, però tutto è possibile. Tutto è possibile, tutto risparmi è possibile. Diciamo per chi adesso si ritrova in stato di disoccupazione, certo. Visto la situazione economica del ma paese. Ma se paradossalmente ci fosse una situazione di questo tipo, Gianfranco, quindi un saldo molto alto, no, ma se ci fosse un saldo molto alto su questo conto corrente e la famiglia poco abbiente, perché lo dimostra con un ISE inferiore a 7.500 euro, sarebbero conciliabili le due? Conciliabili, certo. Se l'ISE è sotto i 7.500 e ha un saldo di conto corrente superiore a 5.000, stiamo parlando. Ah, non ecco. È che stiamo parlando... No, appunto, quindi... dicevo io, ma se paradossalmente ci fosse un saldo molto più alto su questo conto corrente e la famiglia dice io però un ISE inferiore a 7.500 euro, non sarebbe possibile? Non sarebbe possibile, nel senso che tutto è possibile, nel senso che l'ISE dovrebbe tenere conto anche, no, di delle sue fortune, diciamo, oltre quelle che sono diciamo lo stipendio mensile, che può darsi che in questo frangente, no, la persona sia priva di un lavoro, mentre fino a qualche mese fa, no, aveva a disposizione, no, quindi a sto punto si potrebbe trovare nella condizione di avere più di 5.000 euro sul conto corrente pur non avendo nemmeno 7.500 euro di ISE. Possibilissimo. Certo, non ho capito quello che vuoi dire. Sì. Allora, senti, ma per le fasce meno abbienti, che tipo di, anche se in realtà siamo ripartiti appunto dai pensionati, che tipo di operatività dovrebbe avere questo conto corrente di base? La domanda a me? Sì, la domanda è per te. Allora, per quanto riguarda quindi questi conti correnti base, quindi dicevamo bisogna scinderli tra quelli destinati ai meno abbienti e quindi in questo caso naturalmente tutto è gratuito, naturalmente non abbiamo modo di avere nessun tipo di interesse attivo, no, sul conto corrente, vista, no, che l'offerta è destinata proprio per non avere nessun tipo di spesa. E allora c'è la possibilità di fare i prelievi con il Bancomat, non solo presso la propria banca o la propria, diciamo, ufficio postale, ma anche presso quelli di altre banche, in questo caso fino al numero massimo di 12 l'anno, no? Poi ancora abbiamo delle possibilità di fare questi addebiti, delle utenze per esempio in maniera gratuita, e questo è per le persone, diciamo, meno abbienti, diciamo, per avere questo minimo di operatività, in quanto in nessun caso in queste tipologie di conti correnti base, nemmeno quelle che andremo a dire adesso per i pensionati oppure quelli che sono validi per tutti, un'offerta base che vale per tutti, anche in quel caso per però con il pagamento di un canone minimo, in questo caso non si possono mai, diciamo, avere degli assegni, un libretto degli assegni, non si può mai chiedere in abbinamento al conto corrente un affidamento, certo, oppure avere la possibilità di associare un deposito titoli, questo non si potrà mai fare. Altrimenti, quindi, come dire, scattano altri oneri e il conto, certo, corrente non si può diventa un'altra una cosa. Carta di credito, no? Mentre si può avere una carta di debito, il Bancomat, non si può avere una carta di credito associata al conto corrente base, però dobbiamo sapere che sono, diciamo, sono tanta la fascia della popolazione che non utilizza la carta di credito in Italia, anche se delle statistiche recenti, no, fanno vedere che c'è un'emissione di carte a dismisura, in quanto poi si parla addirittura di percentuali intorno al 10% delle carte di credito utilizzate una volta rilasciate, quindi c'è un costo di carta che qualcuno sostiene, penso le persone con i canoni annuali, che poi effettivamente non vengono utilizzati. Effettivamente è così, magari questo potrebbe essere uno spunto per un'altra trasmissione, Gianfranco. Andiamo a sentire Antonio da Roma, poi le ultime battute con Carolina Gianardi. Antonio, buongiorno. Buongiorno Debora. Innanzitutto auguri a te che sei tornata, grazie. Grazie. Ascolta, io sono un ex dipendente di banca e ai miei clienti quando spiegavo il conto corrente spiegavo pure che in alcuni casi potevano essere cambiate le condizioni di conto. Allora, mi spiego, non vorrei che per i pensionati ci fosse l'imbroglio sotto il lenzuolo. Perché, Antonio, le è venuto questo dubbio? Perché? Perché dopo 36 anni di banca ti viene il dubbio, dottoressa? No. Il discorso è semplice. Noi stiamo entrando in una fascia di circa 5, 6, 7 milioni di pensionati. O sbaglio? No. Sì, esatto. Adesso io non mi ricordo quanti siano... Perché? L'obbligo... hanno l'obbligo di fare questo versamento. Ora, lo Stato, secondo te, in una situazione del genere, modificandosi certe condizioni, non ti va a applicare l'imposta di bollo anche su questi conti correnti? Quindi, insomma, Antonio, è che una volta che questi hanno praticamente aperto dei rapporti di conto, magari si parte con un conto di base dove l'imposta di bollo viene cancellata, viene momentaneamente sospesa, poi da momento all'altro, prelievo, tipo micro patrimoniale. Esatto. Ma pure le cosiddette spese. Le spese. Io, guarda, Debora, gratis è morto da tanto tempo. Lo so, infatti, cioè, non resuscita peraltro. Anzi, le banche non sono opere di beneficenza. No, come dice, io lo dico sempre. Le fondazioni forse fanno beneficenza, ma le banche no. Antonio, grazie. Ora, abbiamo capito la perplessità. Vorrei interromperla perché devo fare la seconda pausa. Però, allora, Carolina Gianardi, visto che devo salutarla tra un po', che cosa rispondiamo ad Antonio? Ma. Allora, in questo caso specifico di fatto c'è un'offerta di conti correnti che è regolata per norma, passatemi il termine, no? Quindi da questo punto di vista quello che le banche, le poste devono fare e che cosa viene offerto a pagamento o gratuito, diciamo espresso in maniera piuttosto chiara. E quindi diciamo per cambiare le condizioni dovrebbe essere, come dire, azioni unilaterali da parte del singolo intermediario non è pensabile per quel che riguarda, diciamo, gli aspetti regolamentati da convenzione. Poi è chiaro che quello che è a pagamento, ogni banca, le poste italiane hanno le loro politiche. Per quel che riguarda l'imposta di bollo, gratuita, non gratuita, eccetera, come dire, noi su questo fronte come istituti prendiamo atto di quello, no, che ci viene detto di fare. Quindi oggi ci viene detto che per certi profili l'imposta di bollo è gratuita a certe condizioni. Noi applichiamo la norma, ecco, quindi mi sento di dire che rispetto a questa offerta, possibilità, come dire, di manovre laterali o quant'altro non ce ne siano e non siano possibili da parte del singolo istituto, ecco. Va bene, in ogni caso, intanto adesso prendiamo atto di quello che c'è e del fatto che quantomeno il sistema bancario al momento deve proporre il conto di base. Poi chiaramente, tenendo in considerazione la preoccupazione di Antonio, cercheremo di monitorare affinché tutto questo non accada. Ci sarebbe un'enorme sollevazione da parte delle associazioni dei consumatori, quindi immagino che cosa potrebbe accadere in ogni caso. E se posso ribadire velocemente, nel senso che bisogna continuare a fare informazione, secondo me, su questi aspetti, perché come le poste, diciamo, in questi mesi di tempo che hanno avuto, perché si parlava di questi conti correnti di base ormai da dicembre, hanno avuto il tempo naturalmente di indirizzare la clientela che chiedeva informazione allo sportello, diciamo, sui libretti. Dall'altra parte le banche, no, hanno avuto il tempo di fare queste offerte, insomma, così civetta, parallele, diciamo, di conti correnti per i pensionati in questi mesi. Naturalmente il pensionato deve sapere che non sono quelli i conti correnti base per i pensionati che hanno sottoscritto nei mesi scorsi, ma sono questi entrati in vigore il 1 giugno. Allora, quindi, guarda, ritornate allo sportello. Adesso devo andare in pausa, poi magari diamo qualche indicazione ai nostri ascoltatori su come riconoscere il conto corrente di base rispetto ad un altro molto simile che la banca ti può proporre. Magari deve essere nel prospetto informativo proprio indicata la nota della convenzione del Ministero dell'Economia, ABI, Poste Italiane e quant'altro, magari quello potrebbe essere proprio la indicazione cruciale che ci permettere di fare la distinzione. Dottoressa Giannardi, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci, a risentirci, suggerimenti per chi è in viaggio, tra poco. Allora, Gianfranco Ursino, ci rimangono pochissimi minuti. Quanto dovrebbe costare, ci chiede Gabi, il conto corrente di base, il più semplice, incluso anche il pagamento delle bollette, luce e gas, qualora si volesse fare l'addebito automatico di una serie di, naturalmente, cose che andiamo a pagare tutti i mesi, le bollette, della luce, eccetera. Allora, ricapitolando velocemente, ci sono diverse tipologie di conti correnti base. Il primo è quello per le persone che hanno un ISEE inferiore ai 7.500 euro. Per questi il conto corrente offerto in maniera gratuita, anche l'imposta di bollo è gratuita, hanno una operatività limitata, comunque possibile fare anche gli addebiti delle utenze, oltre che l'accredito della pensione. Il numero illimitato? Ed è il numero illimitato, ci possono anche fare dei prelievi. Il numero illimitato di che cosa intende? Intendevo per esempio delle bollette da... Sì, diciamo che poi il numero illimitato, diciamo che si parliamo ormai no, di tot all'anno per ogni tipologia di cose. Per fortuna almeno non ne poi parliamo. Poi c'era il discorso invece per i pensionati. Per i pensionati, in questo caso, che hanno un ISEE quindi superiore a 7.500, in questo caso ne perdono qualcosa, pur avendo, diciamo, un assegno mensile inferiore ai 1.500 e con un ISEE superiore a 7.500, perché se hanno un ISEE inferiore conviene fare quello per i meno abbienti. Ci siamo, anche i pensionati. Perché cosa succede? Perdono un po' di operatività, pur essendo gratuito come commissioni che la banca non può applicare, è prevista l'imposta di bollo, sempre se c'è l'aggiacenza superiore a 5.000 euro. Quindi per i pensionati con un reddito ISEE superiore a 7.500 euro e una pensione inferiore ai 1.500, ok? In questo caso c'è la particolarità che pagano l'imposta di bollo. Però diciamo che quei pensionati lì non hanno l'obbligo di aprire il conto se hanno una cifra inferiore ai 1.500 euro. Però qualora volessero lo stesso sottoscrivere un conto corrente, sanno. Anche perché ci sono molti che ce l'hanno già, no? Il conto corrente, e quindi la cosa che vorrei ancora sottolineare è che queste offerte sono valide, dei conti correnti base, anche per coloro che sono già clienti, che hanno già un conto corrente, di andare a chiedere e vedere se c'è la convenienza di passare al conto corrente base in base alla propria operatività. Naturalmente bisogna fare un po' di conti, in quanto a volte non è così conveniente se uno fa anche una movimentazione in titoli, vuole la carta di credito, vuole gli assegni. Sì, no, ti stavo. E in più, c'è sì. L'ultima per rispondere, c'è l'ultima versione del contratto di base, è valido per tutti. In questo caso, le banche devono offrire un canone annuo omnicomprensivo di tutte le spese per dare questa operatività che sempre che rimane limitata. Comunque, c'è la possibilità di fare quel minimo di operazioni come l'addebito delle utenze, del credito dello stipendio. E lì le banche si stanno orientando per un'offerta che va dai 12 euro ai 72 euro. La nostra ricerca sul campo che abbiamo fatto e abbiamo visto delle offerte che variano dai 12 euro ai 72 euro. Allora, ci ha chiamato come un semplicissimo ascoltatore all'800240024 Maurizio Pimpinella, che è il presidente dell'Associazione Italiana Istituti di Pagamento con Moneta Elettronica. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo detto delle cose scorrette questa mattina, la materia è ancora un pochino confusa, forse ci dovremo ritornare prossimamente. Che cosa voleva precisare, Presidente? No, di scorretto no, la cosa importante da aggiungere che il conto di base può essere aperto anche presso gli istituti di pagamento e di moneta elettronica. Mm. Quindi per farci un esempio, per farlo capire anche a chi ci ascolta, nomi e cognomi? Sì, dall'Automatica, Eni, Lufthansa, AirPlus, PayTip, oramai gli istituti di pagamento sono allo stesso livello del canale bancario, quindi gli istituti di pagamento oggi si affacciano sia con le reti distributive con altri servizi. Anche se credo che l'utenza che si può rivolgere a questi soggetti, Presidente, lei lo riconoscerà, magari non è esattamente quella composta da pensionati con profili molto modesti, che cosa ne dice? Se già non hanno un conto corrente, figuriamoci se vengono a sottoscrivere presso questi soggetti che lei ci ha indicato, no? Un conto corrente di base, però ha fatto bene a ricordarcelo. Chi può venire da voi, ad esempio, tipicamente? Qualsiasi persone che può andare in uno sportello bancario e può andare in un ufficio delle Poste Italiane. Proprio la nuova normativa consente ai consumatori e a tutti i cittadini di recarsi anche in altri sportelli. Questo è il valore aggiunto. Benissimo. Altre raccomandazioni da fare agli ascoltatori, Presidente Pimpinella, secondo il vostro punto di vista? Le raccomandazioni è di valutare attentamente l'operatività del conto e sostanzialmente di confrontarsi sempre con gli addetti facendo maggiori domande possibili proprio per l'apertura di questo conto corrente. E infatti, però ecco il tema che adesso, le banche e anche le Poste che abbiamo sentito prima hanno da adesso, perché avevano l'obbligo di farlo dal 1 giugno, predisposto l'offerta per chi ancora non ha aperto un conto, e credo che da luglio parta l'obbligo per i pensionati. Esatto, quindi c'è veramente poco tempo per fare delle valutazioni delle offerte che sono tantissime appunto da parte del sistema bancario e finanziario, per cui è bene prendere subito in mano la situazione, andare presso gli sportelli, appunto cercare di informarsi al meglio andando su internet e se si ha la capacità anche di navigare sul web con tranquillità, oppure prendere possibilmente più fogli informativi possibili e magari farsi aiutare anche da qualcuno. Grazie Presidente Pimpinella per averci chiamato, buona giornata. Grazie, buongiorno. E Gianfranco, ultime raccomandazioni prima di andare alla nostra pillola IMSS su questo argomento, secondo te insomma come facciamo ad indicare ad un pensionato che ha davvero un approccio ancora un po' difficile con, non dico con lo sportello perché magari si può far aiutare anche dall'impiegato, però sai che ci sono gli irriducibili, quelli che vanno adesso con grossa difficoltà allo sportello, che non avrebbero mai voluto farlo in vita loro ma che adesso sono obbligati. Bisogna sempre più entrare nell'ottica di farlo, no? Perché comunque ci sono dei vantaggi anche che vanno oltre quello che può essere sembrare l'obbligatorietà che il governo ci ha imposto. Comunque per chi naturalmente non ha mai avuto un conto corrente e dovendolo adesso farlo, a questo punto l'idea è quella di indirizzarsi verso questa offerta base. Se supera quindi 1500 euro c'è questa offerta base che è rivolta a tutti, quindi che c'è un canone minimo omnicomprensivo, sai che paghi all'anno 12, 30, 45 euro, e quindi l'idea è quella di indirizzarsi verso questo tipologia di offerta, perché se fino ad oggi non ha avuto un conto corrente gli va benissimo quello base. Certo. Mentre per chi è già titolare di un conto corrente, di analizzare un estratto conto, di vedere che tipo di operatività ha fatto in questi anni, che utilizzo ha fatto in una carta di credito che ha in mano e non ha mai utilizzato, tutto quanto il resto, e a quel punto anche con l'aiuto dello sportellista che è lì preposto per farlo, esatto, avere un'indicazione di massima su quale offerta andare. E poi insomma, se proprio il conto corrente non si vuole, sempre il libretto di risparmio nominativo, non lo fate più al portatore perché non è più possibile farlo, a meno per importi molto alti, per cui si può andare con la massima semplicità su quello strumento. Andiamo alle pillole curate in collaborazione con INPS, che ci aiutano a conoscere le novità e capire i meccanismi dell'ultima riforma delle pensioni. Oggi parliamo di chi può ancora ottenere la pensione di anzianità con la vecchia normativa. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. Le pensioni di anzianità sono state abolite con la riforma, ma chi ha raggiunto i requisiti della vecchia normativa entro il 31 dicembre scorso può ancora lasciare il lavoro e ottenerle? Sì, coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità, così come erano previsti dalla precedente normativa, entro il 31 dicembre 2011 possono ottenere il vecchio trattamento di anzianità. A loro, però, si applica anche il sistema delle cosiddette finestre e quindi devono attendere comunque 12 o 18 mesi, a seconda che siano lavoratori dipendenti o autonomi, tra la maturazione del diritto e l'effettivo pensionamento. In pratica, avendo maturato il diritto nel corso del 2011, potranno andare realmente in pensione nel corso del 2012 o del 2013. Grazie a tutti per essere stati con noi. Salva Danaio naturalmente torna domani. Grazie a Gianfranco Orsino, grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione. Ci risentiamo domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.